Quest'opera è un progetto che nasce, diciamo, all'interno del Circolo Arci Ritmo Lento, che è un circolo arci di Bologna. Fondamentalmente si pone un po' l'obiettivo, a partire da quella che è la condizione, una condizione generazionale che noi viviamo come appunto generazione precaria, di provare a far vivere uno spazio di rappresentanza e di azione dei lavoratori e delle lavoratrici di Bologna attraverso alcuni nuovi strumenti che abbiamo sperimentato in alcune campagne che abbiamo messo in campo nel corso dei mesi scorsi, come per esempio quella di Riders Union Bologna. Questi strumenti sono appunto le campagne tematiche, sono appunto la costruzione di sondaggi tra i lavoratori, sono una serie di strumenti che fanno riferimento alle pratiche di community organizing che sono, diciamo, proprie dei lavoratori americani, diciamo sono proprie dei sindacati informali americani e canadesi, e che mirano quindi alla creazione di uno spazio di rappresentanza per quei lavoratori che per questioni contrattuali o per questioni anche legate per esempio a permesso di soggiorno, comunque una serie di problematiche che sono oggi all'ordine del giorno, diciamo non hanno accesso alle misure classiche di sindacalizzazione del lavoro dipendente, cioè quelle appunto proposte in qualche modo dai sindacati tradizionali, o comunque non sono in qualche modo sindacalizzabili per questioni contrattuali, appunto sono facilmente ricattabili, sono soggetti a un alto livello di precarietà contrattuale, ed è per questo appunto che quello che abbiamo pensato è appunto quello di provare a mettere in campo un sistema generale di messa in campo di questi strumenti di rappresentanza del lavoro precario, perché diciamo abbiamo notato che ad oggi tanti giovani lavoratori e giovani lavoratrici di Bologna vivono di lavoro saltuario, vivono di lavoro informale, vivono di lavoro precario, legato soprattutto appunto alla crescita esponenziale che il turismo ha vissuto nella nostra città negli ultimi anni, e che appunto ha portato anche un cambio di paradigma rispetto a quello che era il classico modello industriale emiliano. È portato in auge in qualche modo un paradigma del lavoro a basso valore aggiunto e legato al turismo, alla ristorazione e a questa serie di settori. E in quale modo vorreste dare vita a questa che potrebbe essere definita, insomma, una forma alternativa di mutualismo? Allora, diciamo che nel tempo abbiamo affinato una serie di strumenti mettendo appunto a disposizione dei lavoratori e delle lavoratrici della città il nostro circolo, appunto come spazio di dopo lavoro, spazio per le riunioni sindacali o comunque per esempio ciclo officina per quanto riguarda i riders, quindi innanzitutto mettendo a disposizione una serie di strumenti che è di competenze che come attivisti e attiviste possiamo appunto mettere in campo. Dall'altro lato è un po' tutto in divenire, nel senso che noi abbiamo chiamato per il 30 aprile una assemblea pubblica aperta alla città in cui appunto provare anche a discutere insieme e a comprendere come affinare questi strumenti in qualche modo anche da caso a caso. Questa è un po' la prospettiva che ci stiamo dando, o comunque riaprire, diciamo che il primo obiettivo è quello di riaprire, restituire al pubblico, restituire alla città la discussione sul lavoro, che ad oggi è una discussione chiusa in qualche modo non democratizzata. In ultimo ti volevo chiedere, ma c'è spazio a questo punto per mettere il dialogo tra le diverse forme di precariato che sono costituite? Sì, noi speriamo di sì, nel senso che abbiamo sperimentato come di fatto oggi si è venuto a mancare quello che è il legame che invece esiste tra appunto le lotte sul lavoro, le rivendicazioni sul lavoro e l'interesse generale che può avere una comunità o una città nel supportare quel tipo di lotta. Oggi invece c'è un confine sempre più sfumato tra quelle che sono le pratiche della riproduzione sociale, cioè legate al modello di vita, legate alle qualità della vita e legate alla qualità del lavoro. Quello che speriamo appunto è che tramite la messa in campo di nuovi strumenti di sindacalizzazione sia possibile perseguire una ricomposizione generale dei lavoratori e delle lavoratrici, che ad oggi evidentemente è venuta a mancare a causa di una frammentazione costruita a tavolino. Ma diciamo siamo riusciti a ricreare in qualche modo tramite le pratiche messe in campo, mi riferisco soprattutto a Radio Studio, il legame tra città e lavoro, no? Nel senso che a ricreare una sorta di rilancio della solidarietà tra lavoratori e la comunità di Bologna, e pensiamo appunto che sia possibile generalizzare questo tipo di esperienza e appunto riuscire a riattivare le pratiche di solidarietà anche tra lavoratori, anche tra diversi settori. È per questo appunto che abbiamo organizzato un'assemblea pubblica, appunto ci incontreremo il 30 aprile alle 19 al Circolo Ritmo Lento, aperta alla città, aperta a tutti i lavoratori e le lavoratrici precarie e precarie di questa città, per conoscerci e ricominciare anche a riconoscerci come cittadini, come parte della cittadinanza attiva di questa città.